sembiante cor superbo. Se l'ho letto alla violenza è di rigor. Se l'ho letto alla violenza è di rigor. Mai non gode un bel sembiante cor superbo. Se la terra alla violenza il rigor. Importuna la vendetta con lo sdegno, con lo sdegno e col dolor. Importuna la vendetta, importuna